Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it. Euroreportage. Euroreportage. Europa in cerca di ricarica. Di Gigi Donelli e Sophie Petitjean. Non è affatto troppo tardi. Il mercato per i veicoli elettrici in Europa sta iniziando a crescere soltanto adesso. Si tratta di una torta enorme che offre possibilità a tutti. L'Europa può ancora recuperare terreno. Come ci spiega Julia Poliskanova, direttore della società di consulenza di Bruxelles dal nome esplicito di Clean Vehicles and E-Mobility, la sfida dell'Europa ai colossi asiatici dell'auto elettrica non si è fermata per la pandemia. Nonostante tutto, la crisi non ha bloccato il piano europeo deciso a ridurre lo svantaggio accumulato sul fronte delle batterie. Gli asiatici restano molto in testa. Ma la European Battery Alliance, dunque l'alleanza per le batterie costituita nel 2017, è regolarmente cresciuta e dovrà davvero farlo ancora parecchio. È infatti una questione industriale, ma anche politica e strategica, come ci ha ricordato Stefano Passerini, direttore del Dipartimento del Gruppo di Lavoro sulle Batterie dell'Helmholtz Institute di Ulm in Germania. Perché le batterie permettono di risolvere rapidamente, i problemi di decarbonizzazione. No? L'Unione Europea si è fissata questo target di una decarbonizzazione quasi completa, cioè di smettere di produrre CO2, di aggiungere CO2 all'atmosfera nel 2050. Circa un terzo della CO2 prodotta in Europa adesso viene dai veicoli a combustione interna, quindi dai normali autovetture o autocarri. Passando a un trasporto completamente elettrico già si può abbattere la produzione di CO2 di un terzo, e questo è sicuramente un target che è possibile nei prossimi 10 anni. Questo non significa non prendere atto del fatto che il settore sia stato pesantemente penalizzato. In Europa occidentale le vendite ad aprile sono precipitate dell'80%. Sull'intero anno si prevede un meno 20%. Eppure la European Batteries Association non cambia i suoi obiettivi, che di fatto è quello di colmare il divario. Pensate che di tutte le batterie del pianeta solo il 3% viene prodotta in Europa. L'Asia è all'85%. E allora ecco che in Svezia il progetto Northvolt, di una grande industria, grande fabbrica di produzione, ma anche quella franco-tedesca del gruppo Saft, insomma tutto questo lascia molto spazio al futuro da costruire. Così sostiene Bo Normark, che è il responsabile delle strategie dell'olandese EIT Inno Energy. Lo sentiamo. La concorrenza non c'è, nel senso che secondo quanto osserviamo oggi, entro il 2030 avremo bisogno di qualcosa come 25 gigafactory in Europa. Oggi 6 o 7 sono in costruzione, quindi c'è grande spazio per nuove iniziative. E la pandemia, a cui abbiamo prima accennato, magari in qualche altro modo, questo evento davvero imprevisto, potrebbe condizionare lo sviluppo del mercato europeo delle batterie per automobili, Bo Normark? Se credo che la crisi portata dal coronavirus sia positiva o negativa per l'EBA? La mia opinione è che questa crisi accelererà il processo, non il contrario. Ovviamente sorgeranno complicazioni e preoccupazioni nel breve termine, ma credo che in fin dei conti il virus renderà il processo più rapido. Il virus dunque potrebbe forse addirittura accelerare il processo, potrebbe accorciare la strada verso un passaggio generalizzato all'auto elettrica, che per adesso resta l'eccezione, non la norma. Auto elettrica che significa almeno per un terzo del valore complessivo proprio la batteria. Valore, ma anche utilizzo, perché autonomia e tempi di ricarica ancora non sono all'altezza delle nostre abitudini. Stefano Passerini, direttore del Dipartimento del Gruppo di Lavoro sulle Batterie di Ulm in Germania. Sentiamolo. Diciamo che forse il secondo punto è il punto più critico, nel senso che se si sviluppassero batterie che possono essere ricaricate in 10-15 minuti, la capacità di energia accumulata diventerebbe molto meno importante. Certo. Ognuno di noi ogni 2-3 ore ha bisogno di fermarsi un attimo per vari motivi quando guida, e nel frattempo potrebbe ricaricare le batterie. Il problema è che al momento occorrono dai 50 minuti a forse, per far lavorare bene la batteria per molti anni, anche 2-3 ore. Diciamo che sopra le 2 ore è sicuramente un tempo di ricarica che permette di non stressare le batterie, quindi di avere queste batterie che funzionano per molti anni. Accelerando la ricarica, che è possibile al momento anche a un'ora o 45 minuti o 30 minuti, 30 minuti è un po' difficile, ma le batterie vengono stressate e quindi durano meno nel tempo. L'interesse dell'industria sarà direttamente proporzionale al rigore delle normative UE. È la politica che deve orientare le strategie industriali in un blocco di ben 27 paesi. Giulia Poliscanova ne è convinta. Sentiamo. Il settore automobilistico oggi in Europa sta investendo nell'elettrificazione, soprattutto per via delle regole europee. Quindi gli standard di CO2 che le auto devono rispettare da quest'anno costituiscono la ragione fondamentale dell'interesse, se vogliamo chiamarlo così, dell'industria dell'automobile. Insomma, nessuno vuol fare beneficenza, ci dice la Poliscanova. E forse è bene così, visto che se davvero vogliamo cambiare entro il 2050 il nostro continente, abbiamo bisogno di interessi solidi. Politica, industria, ricerca, consumatori, tutti attori di una storia da scrivere. Chissà che proprio l'evoluzione tecnologica non apra spiragli oggi inattesi. Un punto sul quale è bene dire che Stefano Passerini invita a non farsi illusioni. Chimicamente, diciamo, il litio è il metallo reattivo più reattivo che si possa usare, quindi in teoria non c'è nulla che sia meglio del litio, ok? In pratica si stanno valutando altri metalli che garantirebbero, per esempio, dei volumi minori delle batterie, ma sono pochi, magnesio, forse alluminio, ma fare delle batterie con magnesio metallico, alluminio metallico ricaricabili al momento non c'è certezza, diciamo. Sono dei sistemi in fase di studio. E la legge di Moore che tanto ci piaceva applicare sui personal computer, professor Passerini? No, il sistema è completamente diverso. Consideriamo che, passando dalle batterie al piombo acido, che sono le tipiche batterie per l'accensione degli attuali veicoli, alle batterie litio-ione, per il momento si è aumentato nemmeno di un ordine di grandezza, e nel frattempo sono passate decine di anni, quindi non è questa la velocità di progresso nel campo delle batterie, è proprio un limite fisico, non è possibile aumentarla con quella velocità. Chissà che una vera concorrenza europea non possa portare a balzi tecnologici. D'altra parte, l'abbiamo sentito prima, la concorrenza oggi di fatto non c'è. È chiaro che in queste settimane di crisi questo ottimismo potrebbe apparire eccessivo. In realtà il sostegno pubblico che molti hanno già chiesto a causa del crollo delle vendite va proprio in questa direzione. Basta citare Renault, costruttore francese, controllato al 15% dallo Stato, riceverà 5 miliardi di euro dal governo, che condiziona dunque questo sostegno importantissimo alla partecipazione della società al progetto SAFT, di cui abbiamo parlato prima, progetto franco-tedesco per la produzione di batterie. Insomma, secondo Bo Normark, cose di questo tipo accadono in realtà in queste ore in molti dei paesi europei. Per chiudere, l'europarlamentare svedese Gitte Guteland è tra quelli, e sono parecchi, convinti che questa situazione sarà alla base di un vero e proprio scambio. Sostegno dello Stato in cambio di investimenti nei progetti europei innovativi. Penso che gli Stati membri dovrebbero essere aperti a questa possibilità. Bisogna ovviamente verificare quali possano essere queste opportunità, ma credo sia normale chiedere all'industria maggiore rapidità nella transizione. Se i contribuenti versano somme maggiori per affrontare questa transizione verde, anche l'industria dovrebbe fare di più. Euro Reportage. In collaborazione con Euronet Plus. Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it.